da signorinella tu ci facevi cantare, quando in un cielo di stelle le bimbe più belle sapevano amare. Bastava un raggio di luna e una canzone d'amore, musica languida e parole semplici, semplici come il tuo cuore. Signorinella che passi là in fondo alla via, io dal balcone ti guardo e mi fai ricordare. Signorinella d'un tempo la dolce poesia, quella che il cuor d'un poeta ha saputo cantare. Ora è cambiato il tuo nome, non sai l'amore cos'è. Oggi nessuna canzone con tanta passione si canta per te. Signorinella che passi là in fondo alla via, tu non ricami al telaio in soffitta lassù, negli occhi tuoi non c'è ombra di malinconia. Signorinella d'un tempo non torna mai più. Lassù, negli occhi tuoi non c'è ombra di malinconia, signorina.